Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È uscito da poco, come sempre per Adelphi, un nuovo Maigret. Maigret e il caso Nahour, con la traduzione di Anna Maria Carenzi Vagli. Nella sua lunga carriera, Georges Simenon scrisse ben 75 romanzi e 28 racconti brevi con il commissario Maigret protagonista. Ma che rapporto Simenon aveva con il suo personaggio seriale? Si sentiva ingabbiato o lo considerava il punto di forza della sua opera? Lo abbiamo chiesto a John Simenon, uno dei figli dello scrittore belga. Le due. Vous savez, il n'y a aucun amour absolu, il n'y a aucune haine absolue non plus, donc... Entrambe le cose. Credo che non ci sia né amore assoluto né odio. Credo che mio padre provasse del vero affetto per Maigret e credo che lo ritrovasse regolarmente ogni anno con molto piacere. Era una specie di ricreazione, e stiamo parlando degli anni 50-60. Allo stesso tempo, però, è certo che non poteva non provare una certa frustrazione, perché Maigret era un personaggio piuttosto ingombrante nella sua vita. Il ne pouvait pas ne pas y avoir une certaine frustration parce que Maigret était dans la vie de mon père quand même un peu encombrant. Lei ora cura l'opera di suo padre. Secondo lei perché è uno scrittore così amato e ha così tanto successo? Che cosa piace? Mais moi je sais pas. Je sais pourquoi moi j'aime les romans de mon père. Parce que non so dare una spiegazione in assoluto. A me i romanzi di mio padre piacciono perché mi aiutano a trovare me stesso e ad accettarmi, a vivere in pace con me stesso, almeno in parte. Credo che in tutti i romanzi di mio padre si possa sentire un'angoscia che tocca tutti quanti noi. Une question, une angoisse qui nous touche tous. Simenon è stato sicuramente uno scrittore molto prolifico, molto frenetico, dicono in molti. Quali erano i momenti della giornata in cui scriveva? Come si approcciava alla scrittura? Alors, il a changé au cours des années. Il y a eu des années quand il était jeune où il écrivait à 4 heures du matin. Credo che mio padre abbia cambiato rito di scrittura nel corso della sua vita. In un periodo della sua vita in cui non ha potuto conoscerlo, quando era molto giovane. Lo immagino dopo notti di bagordi che si metteva a scrivere alle 4 del mattino, con una bottiglia di vino sul tavolo, scavalcando i corpi di gente che dormiva sul pavimento dopo una notte di follia. L'uomo che ho conosciuto io era molto più organizzato e regolare. Si svegliava molto presto, entrava nel suo ufficio intorno alle 6:30 del mattino, prima che chiunque altro si svegliasse, e scriveva fino alle 10:30-11. Questo per quanto riguarda la scrittura dei capitoli a mano. Il pomeriggio, dopo essersi riposato, dedicava due ore e mezza per battere a macchina quello che aveva scritto. Per i Maigret era diverso. Scriveva direttamente a macchina e gli bastava mezza giornata. Per i Maigret, il ne faisait que taper alla machine. A ce moment-là, il travaillait une demi-journée seulement, que pendant une demi-journée. Un ricordo personale di suo padre. Alors, il y en a beaucoup, il y en a un que qui me vient souvent, c'est celui où je passais ce ne sono tanti. Uno mi ritorna spesso alla mente. Avevo 10-11 anni, guardavo il telegiornale abbracciato a lui alle 8 dopo cena. È un ricordo molto forte perché era per noi un modo di concludere la giornata in pace dopo tutte le difficoltà della scuola. E poi un'altra cosa importante. Passeggiavamo tantissimo. Raramente capitava una giornata senza una passeggiata insieme, per discutere di tutto e di niente. Passai rarement une journée sans que j'ai l'occasion de me promener avec lui pour discuter de tout et de rien. E questo era John Simenon, figlio di Georges Simenon. When you came in the air Qualcuno l'avrà riconosciuta, è la sigla della serie televisiva True Blood, tratta dalla saga sui vampiri che ha per protagonista Suki Stackhouse, cameriera di un bar con un debole per i vampiri e la capacità di leggere nella mente degli altri. La saga è firmata dall'americana Charlene Harris e Fazzi ha da poco pubblicato Morto per il mondo, era già uscita un'edizione per Delos, questa volta tradotto da Anna Maria Guarnieri, è il quarto volume della serie. Ma com'è nata l'idea di una saga sui vampiri? Maria Chiara Grandi se l'ha chiesto alla stessa autrice. Ho deciso che volevo raggiungere un numero maggiore di lettori rispetto a quelli che catturavo con i gialli classici che ho scritto per anni. Un giorno mi è venuta in mente la storia di una ragazza che si innamora di un vampiro e allora ho iniziato a chiedermi come mai una giovane e sana di mente sarebbe mai stata attratta da un vampiro. Così ho iniziato a sviluppare questo tema in tutta la saga. Piano piano ho costruito un intero mondo intorno alla storia di questa ragazza. I constructed the whole world around that one fact about her. Si è ispirata a qualcuno in particolare per il personaggio principale? My daughter, I think. A mia figlia. Come lei, Suki è forte, è leale. Suki è cresciuta un po' insieme a mia figlia e così ha finito per assomigliarle sempre di più. Mi sembra che siano molto simili. Passiamo alla trama del suo ultimo libro, che è Morto per il mondo. E nel quarto libro la magia entra in contatto con l'horror, se possiamo dire. Qual è la differenza fra questi due mondi, se c'è una differenza? Of course the witches are mortal and the vampires are not. Naturalmente le streghe sono mortali e i vampiri no. E questa è una grande differenza. Le streghe hanno il vantaggio di potersi mischiare tra la gente normale, cosa che i vampiri chiaramente non possono fare. I vampiri, dalla loro, hanno la longevità. Sono due mondi molto diversi che non possono integrarsi bene fra loro. Lei è in classifica da oltre 120 settimane nella best seller list del New York Times, miglior scrittrice secondo il Publishers Weekly, quinta autrice più venduta in America con oltre 4 milioni di copie. Qual è il segreto del suo successo e che cosa ama in particolare il pubblico dei vampiri? If I knew I would have done it much sooner. I would have done it many years ago. Se lo sapessi, l'avrei fatto molto prima. Avrei scritto la saga molti anni fa. In realtà non so esattamente cos'è che piace così tanto della saga di Suki. Sicuramente i lettori apprezzano Suki perché è una persona normale, con problemi normali, ma allo stesso tempo ha intorno tanti uomini affascinanti fra cui poter scegliere. Penso che questo stimoli la fantasia di molte donne e probabilmente anche quella di qualche uomo. That suits many women's fantasy life and probably some men's. Oggi assistiamo, se possiamo dire, un po' una vampiromania, sia dal punto di vista letterario, sia cinematografico, sia televisivo con le fiction. Non c'è un rischio di saturazione per il pubblico? I'm sure so, and I wish all those other writers would quit. Sono sicura di questo. Tutti gli altri scrittori di vampiri dovrebbero smetterla subito. Sì, credo che ci siano fin troppi vampiri in circolazione, ma penso anche che quelli che sono saltati sul carro dei vincitori, che scrivono di vampiri solo perché è una tendenza, cambieranno soggetto appena scoppierà un'altra moda. Mi piace invece credere che noi, quelli che eravamo lì fin dall'inizio, continueremo a essere fedeli al nostro progetto e continueremo a scrivere di vampiri. Davvero lo spero. Cosa dobbiamo aspettarci per Suki ora, che dice di non voler più mischiarsi nelle storie dei vampiri e poi ogni volta finisce sempre in qualche pasticcio? Sto scrivendo l'undicesimo libro della saga, quindi sono molto avanti rispetto ai lettori italiani e posso anticipare che succederanno molte cose. Suki ha ancora tante avventure da vivere, farà molte scoperte sul suo passato. E poi Queen scoprirà di essere un licantropo tigre. Mi sto davvero divertendo moltissimo a scrivere il mio nuovo romanzo. E questa era Charlaine Harris, autrice di Morto per il mondo, pubblicato da Fazzi. Fra l'altro vi segnalo che l'intervista in versione originale, quindi in inglese, andrà in onda sabato prossimo alle 19 nella trasmissione English 24. Prima di chiudere, abitudini di lettura e consiglio di Benedetta Cibrario, Campiello 2008, ora in libreria con Sotto cieli non curanti. Io ho sempre letto molta letteratura inglese contemporanea, anche perché ho vissuto molto in Inghilterra e alla fine torno sempre lì. Consiglio di lettura. Adesso sto leggendo Scintille di Gad Lerner, l'ho appena iniziato 3-4 giorni fa ed è un libro che fin dalle prime pagine ha un inizio folgorante e mi ha preso moltissimo. Anche per oggi è tutto, potete ritrovare queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri sul nostro sito www.radio24.it, anche in versione podcast. Una buona serata da Alessandra Tedesco.